che un militare americano ha fatto strage di civili in un villaggio afghano. Prima c'erano stato il Corano bruciato e le immagini dei militari che urinavano sui corpi di alcuni talebani. Ma che succede agli americani in Afghanistan? Laura Bettini lo ha chiesto a Ettore Mo, cronista di guerra e profondo conoscitore della realtà afghana. Siamo veramente arrivati alla frutta, voglio dire, gli sono saltati i nervi agli stessi militari americani e il governo americano non riesce più a controllare, cioè la situazione è precipitata a tal punto che sono odiati dalla popolazione afghana, anche perché loro non si sono comportati molto bene, ecco, anzi, invece di aspettare la fine del 2014 sarebbe bene che anticipassero l'esodo dei contingenti, compreso quello americano. Al contrario, la cancelliera Merkel proprio oggi auspicava quasi di restare oltre il 2014, ma sembra impossibile in queste assolutamente condizioni. Assolutamente, guarda, certamente gli americani sono gli ultimi che possono sostenere di poter resistere oltre il 2014, no, è impossibile, se ne devono andare ormai l'hanno capito, perché la popolazione si è rivoltata, i servizi segreti pakistani, che dovrebbero, diciamo, aiutare la politica di influenza degli Stati Uniti in Afghanistan e comunque nella regione, sono diventati inaffidabili assolutamente. Come mai gli americani, altrove, sia pure in guerre feroci, così sono riusciti forse ad allacciare un po' più i contatti con la popolazione in Afghanistan, invece si ha addirittura il risultato contrario? Ma ci sarebbero gli elementi, sarebbero molti. Io direi che hanno sbagliato fin dall'inizio, cioè quello che doveva essere in sostanza una guerra, chiamiamola di liberazione o di sostegno al popolo afghano. Via via si è guastato questo rapporto e sono sempre apparsi, direi, più come truppe d'occupazione. Ma l'umore della popolazione è andato verso i talebani di nuovo? Non si può dire, perché se prende, dipende dalle regioni, ecco. Togliamo gli americani, togliamo tutte le altre truppe, che Afghanistan rimarrà? Ecco, questo è il problema quando parlo con i miei amici afghani, a chi resta in mano il paese. Ora bisogna ricordare che i talebani sostengono di avere i due terzi del paese in mano loro, sostengono questo. Naturalmente il governo dice che non è vero, che è una valutazione inadeguata, è falsa. Però il problema, cioè, non è che l'esodo dei contingenti stranieri possa portare, diciamo, a una situazione di pace, questo non lo vedo prevedibile per lungo tempo. E ora andiamo in Siria. I cadaveri di almeno 26 bambini e 21 donne sono stati trovati in due quartieri di Homs, lo hanno denunciato oggi attivisti dell'opposizione siriana, i quali hanno anche mostrato un video a sostegno delle proprie accuse contro le milizie fedeli al regime. Alcune vittime sono state sgozzate ed altre pugnalate. E ora veniamo alla tragica morte dello ostaggio italiano in un blitz delle forze speciali inglesi in Nigeria. Londra ha assicurato la sua piena collaborazione e nei prossimi giorni il ministro degli esteri William Hague verrà a Roma. Ci sarà tutta Gattinara oggi ai funerali di Franco La Molinara, l'ingegnere ucciso in Nigeria, insieme all'inglese Chris McManus. L'ultimo saluto nella parrocchia di San Pietro alle 15 per testimoniare la piena vicinanza alla famiglia, la moglie Anna ed i figli Mattia e Nicole. Il governo sta pensando di applicare con una procedura inconsueta la normativa che riguarda le vittime del terrorismo. Sulla vicenda c'è ancora molto da chiarire. Secondo la stampa britannica, i sequestratori avevano chiesto un riscatto pari a 5 milioni di euro, sarebbero riusciti a stabilire un contatto con i familiari dell'ostaggio inglese e a ottenere 1,2 miliardi di anticipo, circostanza negata con forza però da fonti ufficiali inglesi. Si è inoltre saputo che prima del blitz alla moglie di La Molinara a Roma era stato mostrato un video del marito, la prova che fosse in vita. Lo scontro diplomatico tra Roma e Londra inoltre rischia di avere ripercussioni sui vertici dei servizi segreti. Oggi Adriano Santini, direttore dell'AISE, sarà ascoltato dal COPASIR. Katia Caramelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Resta alta la tensione tra Lega e PDL. Gli aggiornamenti in diretta da Elisabetta Fiorito. Buongiorno, Elisabetta. Sì, buongiorno. Il vero test sarà quello delle amministrative, un test che i partiti di centrodestra affronteranno però da soli. Alle elezioni, conferma il governatore del Veneto Luca Zaia, correremo senza PDL, una scelta che è anche l'occasione per contarsi, spiega Zaia. Questo non vuol dire che si rinnega l'alleanza con il PDL, in amministrazione siamo ancora insieme, anche in Veneto dove l'alleanza sta dando ottimi risultati. Parole diverse nei toni da quelle usate ieri da Umberto Bossi, il leader della Lega attaccato. Berlusconi mi fa pena, va a votare il contrario di quello che faceva, non è possibile un accordo per le amministrative. Ce ne faremo una ragione, ribatte Ignazio La Russa del PDL, cercheremo di rimediare alleandoci con la società. Più duro poi il sindaco di Roma Gianni Alemanno, ho sempre pensato che quello con la Lega fosse un'alleanza mortale. Ma all'interno del carroccio c'è anche il caso del sindaco di Verona Flavio Tosi, che vorrebbe correre con una lista civica. Dopo l'altolà del leader leghista Umberto Bossi, Roberto Castelli spiega: Tosi può andare da solo ed è anche in grado di vincere, il problema però è di tipo regolamentare. Per il momento qui da Roma è tutto, per studio. Grazie Elisabetta Fiorito. Veniamo alla riforma del lavoro. Si riparte. Oggi il vertice tra governo e parti sociali potrebbe portare i primi risultati. Alessandra Schefisi, buongiorno. Sì, buongiorno, l'appuntamento è questo pomeriggio alle 16 presso il Ministero del Lavoro, sesto round del tavolo tra i leader delle parti sociali e il Ministro Fornero dopo il rinvio voluto dal Governo per individuare risorse aggiuntive che potessero finanziare la riforma degli ammortizzatori, ed è proprio su questo punto che le parti oggi attendono risposte. I nuovi ammortizzatori dovrebbero estendersi ad una platea di 12 milioni di lavoratori, andare a regime dal 2017, per finanziarli il Governo punterebbe ad attingere 2 miliardi dai risparmi che deriveranno dalla riforma delle pensioni. Si tratta infatti di un paracadute più esteso rispetto a quello attuale, con una cassa integrazione rafforzata per le crisi temporanee e un sussidio universale di disoccupazione che dunque necessita di una copertura aggiuntiva. Sul tavolo c'è anche il riordino dei contratti d'ingresso, tema sul quale si registrano convergenze. C'è infatti una comune intenzione di rafforzare l'apprendistato per i giovani e di introdurre il contratto di reinserimento per chi perde il lavoro. Resta invece fuori dall'incontro di oggi la flessibilità in uscita con l'articolo 18, qui le posizioni sono ancora distanti, CGIL assolutamente contraria a modifiche, CISL e UIL più possibiliste, il tema verrà lasciato per ultimo nell'agenda del confronto, i tempi però sono stretti, ricordiamo che il governo punta a varare la riforma entro marzo. E da Roma è tutto. Grazie ad Alessandra Schefisi. Nel 2011 il PIL è cresciuto dello 0,5%, lo rileva l'Istat che per gli effetti di calendario rivede al rialzo la stima preliminare che dava il PIL a più 0,4%. Rispetto al 2010 la crescita risulta in forte frenata, più 1,8%. Nel quarto trimestre 2011 il PIL è diminuito dello 0,7% su quello precedente e dello 0,4% su base annua. L'Italia è dunque recessione tecnica, visto che per il secondo trimestre consecutivo il PIL risulta in calo congiunturale. E oggi sono stati diffusi i dati dell'industria metalmeccanica, ce ne parla in diretta Andrea Viali. Buongiorno Andrea. Sì, buongiorno Adriana, non sono buoni, lo diciamo tutti, non lo diciamo subito, i dati che arrivano da questo settore, il cui andamento in genere poi anticipa quello dell'intera economia italiana. Nel 2011 la produzione dell'industria metalmeccanica ha registrato un incremento del 2,1%, ma in realtà la fase di crescita si è interrotta nel corso dell'estate, quando si è registrata un'inversione di tendenza che ha portato di fatto il comparto in una nuova fase di sostanziale recessione, una fase che è ancora in atto. I volumi di produzione restano più bassi del 25% rispetto a quelli del periodo precedente, la crisi del 2008-2009. Sulle attività del settore ha inciso negativamente il crollo della domanda interna, che è stato compensato soltanto in parte dall'andamento delle esportazioni, e negative sono anche le ricadute sull'occupazione, che lo scorso anno ha fatto registrare una flessione dell'1,2% nelle grandi imprese metalmeccaniche, e il calo del numero di occupati nel settore sta proseguendo anche nei primi mesi del 2012. È tutto, Adriana. Grazie ad Andrea Viali. Inizio di settimana con un nuovo record per benzina e gasolio, che nei distributori Shell hanno toccato, secondo le rilevazioni di Staffetta Quotidiana, rispettivamente 1.865 euro al litro e 1.780 euro al litro. E ora l'aggiornamento dai mercati finanziari con Deborah Rosciani. Buongiorno Deborah. La settimana, buongiorno a tutti, è partita all'insegna dell'incertezza per le borse del vecchio continente. Milano in particolare viaggia con un calo dello 0,45% a metà seduta dopo una mattinata più volatile. Le altre borse trattano intorno alla parità. Il mercato è in attesa nel pomeriggio dell'ok dei ministri finanziari europei al secondo piano di salvataggio della Grecia dopo l'accordo raggiunto venerdì con i creditori privati. A livello di settori stamattina vanno male le materie prime, penalizzate dai dati negativi provenienti dalla Cina, che ha mostrato un incremento a sorpresa del deficit di febbraio. Milano peggiore in questo momento, meno 0,54%, i titoli più pesanti Campari, meno 8%, evidentemente questo gruppo che ha mostrato vendite sempre molto felici nonostante la crisi, oggi ha comunicato risultati di bilancio deludenti per gli operatori. Monte dei Paschi, che cerca la nuova presidenza, perde il 5%, A2A che rinuncia al dividendo quest'anno perde il 4%, Mediaset con molte bocciature da parte di molti analisti perde il 3,75%. Il mercato invece premia i conti di Parmalat con un rialzo del titolo del 6,48%. Lo spread fra BTP e Bund è ritornato sopra i 300 punti base, una notizia che arriva proprio dalla Grecia perché è partita oggi ufficialmente l'operazione tecnica di scambio dei vecchi bond greci per 177 miliardi di euro emessi in base alla legge nazionale con quelli di nuovo conio, come da accordi appunto raggiunti tra Atene e creditori privati, l'accordo del quale parlavamo all'inizio del nostro collegamento. E per ora è tutto. Ben ritrovati da Adriana Fracchia. Anzitutto i titoli principali di questo notiziario: Afghanistan, strage di Kandahar, i talebani minacciano, uccideremo gli americani malati di mente. In Siria, ad Homs in fuga dalla città martire. L'Istat conferma, l'Italia in recessione tecnica. Il Tesoro trova i soldi per gli ammortizzatori, 2 miliardi dai risparmi sulle pensioni. In apertura di questo secondo blocco del notiziario, la polemica sul reato di concorso esterno in associazione mafiosa dopo la sentenza dell'Utri. Polemiche su polemiche, questo è ancora il dopo sentenza dell'Utri. Magistratura e politica continuano a rispondere sul personaggio, il senatore, e sulle parole del procuratore generale della Cassazione, Iacoviello, che ha parlato del concorso esterno in associazione mafiosa come di un reato al quale nessuno oggi crede più. Un'affermazione che tra gli stessi magistrati sta creando divisione, stigmatizzata da Giancarlo Caselli, che ha chiesto un intervento del CSM, letta con sorpresa anche dall'ex procuratore Vigna, che però sottolinea che sarebbe un errore punire Iacoviello. L'ANM preferisce non parlare, ma il giudice Cosimo Ferri fa sapere che i magistrati devono essere i primi a credere nell'indipendenza e nell'autonomia dei giudici. Il procuratore Ingroia invece va dritto al punto. Il problema qui non è il reato, ma l'imputato. Quando si toccano i potenti, le polemiche tornano incandescenti. Al di là del caso concreto, la possibilità di individuare gli specifici comportamenti che devono essere considerati reato nell'ambito del concorso esterno in associazione mafiosa rischia di essere lo strumento per indebolire l'attività di contrasto al fenomeno mafioso. A dirlo non è un giudice, ma un avvocato e professore, come Federico Grosso. Valeria De Rosa, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Il GUP di Teramo, Marina Tommolini, ha messo il rito abbreviato per Salvatore Parolisi, accusato di aver ucciso il 18 aprile del 2011 la moglie Melania Rea. Il giudice ha così accolto la richiesta della difesa. Una folla da stadio era al tribunale di Teramo per l'udienza di oggi. E ora la nostra consueta rubrica dedicata al paese sommerso. Il paese sommerso. Il paese sommerso. Storie di ordinaria evasione fiscale. E lo scontrino? Per importi bassi non lo facciamo. La risposta di quelle che prima lasciano perplessi, poi fanno arrabbiare. Eppure accade tutti i weekend a Como, profondo nord, dove una palestra e piscina che rilascia normalmente regolare ricevuta per l'iscrizione ai corsi di nuoto, danza, ginnastica artistica, il sabato e la domenica si trasforma in uno spazio di intrattenimento per bambini che grazie a dei gonfiabili si scatenano. Costo per un'ora 5 euro a bambino, per due ore si raddoppia, se poi si vuole saltare tre ore fanno 15 euro. La palestra Parco Giochi ogni fine settimana si riempie di bambini, anche 100 per volta, fate voi i conti. È anche possibile affittare il posto per feste di compleanno, basta pagare. L'attività è di successo, pienone tutti i weekend. Infatti strutture simili sono sempre più diffuse in tutta Italia e fin qui tutto bene. Peccato che la signora che sta all'entrata sia veloce a incassare ma non altrettanto a rilasciare scontrino o ricevuta, e alla richiesta di averli risponde: beh, se dovessimo fare le ricevute per importi così bassi, si figuri, come se al bar non si dovesse rilasciare lo scontrino per il caffè. Valentina Furlanetto, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E a proposito di evasione, torna a farsi sentire Diego Maradona. Ai microfoni di Sky TG24, il PIB de Oro ha auspicato una soluzione per il suo contenzioso con il fisco italiano, che ammonta a circa 40 milioni di euro. Non sono mai stato condannato dalla Cassazione e voglio chiarire, per trovare una pace finale con il fisco e con tutta l'Italia, mettendo fine a tanti equivoci ed ingiustizie fatte contro di me. Il Sole 24 Ore parla di aumenti e rincari che riguardano le tasse dei comuni. Sentiamo. Dopo le manovre del governo nazionale è l'ora di quelle dei sindaci e il risultato si preannuncia pesante per le famiglie. Mentre i comuni si preparano a far quadrare i bilanci preventivi, da varare entro il 30 giugno, prendono forma i rincari. Secondo il Sole 24 Ore del lunedì, oggi in edicola, finora sono 39 i capoluoghi di provincia che stanno studiando aumenti dell'addizionale IRPEF o aliquote IMU più elevate di quelle fissate a livello nazionale, 0,4% sulla prima casa e 0,76% sugli altri immobili. Sommando i possibili rincari, quest'anno l'aumento può arrivare fino al 150% delle imposte versate nel 2011. Una famiglia di professionisti con due figli a Roma potrà pagare 1.119 euro in più, ma l'aumento dipenderà comunque dalle rendite catastali e dalle scelte locali. Per la stessa famiglia a Milano la stangata sarebbe di 394 euro più 90% e a Bari di 356 euro più 50%. E l'effetto è destinato a farsi sentire anche l'anno prossimo, quando arriverà il momento di saldare il conto con la nuova IRPEF dei sindaci. Cristiano Dell'Oste, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Rivedere Schengen. Con questa parola d'ordine il presidente francese uscente Sarkozy ha fatto partire ieri da un sobborgo parigino la rincorsa ad Hollande, grande favorito alle prossime elezioni presidenziali. Les accords de Schengen ne permettent plus. Nicolas Sarkozy rilancia in grande stile la campagna elettorale in vista del doppio round di fine aprile e inizio maggio, che lo vedrà impegnato in una difficile rincorsa sul socialista Hollande. Il presidente francese ha messo nel mirino l'immigrazione e il commercio internazionale in una svolta a destra ormai conclamata per recuperare voti. Sarkozy ha scelto la banlieue di Villepinte a nord di Parigi per un bagno di folla in stile convention americana. Una prova di forza curata fin nei minimi dettagli, compreso un pubblico in delirio e la premier dame Carla Bruni in prima fila. Il presidente francese ha preso di petto i temi che ha deciso di lanciare nell'arena elettorale in queste settimane cruciali. Gli accordi di Schengen sulla libera circolazione devono essere rivisti. Noi siamo disposti a sospendere la partecipazione della Francia se non si arriverà a una governance politica di Schengen nei prossimi 12 mesi. Di qui la proposta di una riforma strutturale del modello di gestione dei flussi migratori sulla falsa riga di quella appena approvata per l'Eurozona. Occorre gestire gli ingressi in Europa, incalza Sarko, altrimenti non saremo più in grado di accogliere degnamente i nuovi arrivati. Serve una disciplina comune nei controlli alle frontiere, fino alla minaccia finale, o si cambia entro un anno oppure Parigi si sfilerà. Sarkozy ha affrontato anche il tema commerciale, proponendo una normativa comunitaria che introduca il Buy European sul modello americano, una legge in grado di garantire alle imprese continentali una quota loro riservata negli appalti pubblici. Sergio Nava, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Il sole è ancora osservato speciale. La tempesta solare che si è scatenata la scorsa settimana ha infatti soltanto sfiorato la Terra, ma avrebbe invece danneggiato la sonda europea Venus Express in orbita attorno a Venere. Problemi di blackout per le tecnologie, soprattutto GPS, si annunciano anche nei prossimi mesi. Ospite questa mattina, prima edizione, al microfono di Anna Migliorati, Alessandro Bemporad dell'Osservatorio di Torino dell'Istituto Nazionale di Astrofisica. Si prevede appunto che per la fine del 2012, inizio del 2013, con una certa incertezza, arriveremo alla cosiddetta fase del massimo, del picco dell'attività solare. E proprio negli ultimi giorni sul disco solare abbiamo visto l'emergere letteralmente di una nuova regione sorgente delle tempeste solari e dalla quale appunto si sono originati diversi brillamenti. E uno dei riflessi sulla Terra è un disturbo, diciamo così. Siamo disturbi sia sui segnali radio a Terra, ma anche danneggiando satelliti per telecomunicazioni e satelliti GPS in particolare. Non su di noi? Non su di noi, assolutamente. Noi per fortuna siamo protetti dal campo magnetico. Però essendo noi super tecnologici potremmo avere qualche problema un po' per tutto quest'anno. Dipendiamo molto dalla tecnologia e quindi stiamo paradossalmente diventando sempre più deboli, diciamo, nei confronti dell'attività solare. E ora parliamo invece di diritto d'autore. Nei prossimi giorni si riaccenderà il dibattito tutto italiano sul diritto d'autore in internet. Se ne discute in tutto il mondo, finora senza una vera e propria soluzione accettata da tutti. Da mesi l'autorità per le comunicazioni sta discutendo un regolamento che ora viene sollecitato dall'industria dei contenuti, ma sul quale rimangono dubbi tra gli stessi commissari dell'Authority. Il 21 marzo il presidente Corrado Calabrò verrà ascoltato dalle commissioni congiunte Cultura e Trasporti del Senato. Secondo le ultime informazioni, tra quella data e metà maggio potrebbe essere approvata la nuova delibera, ma rimangono aperte parecchie domande. È opportuno che una decisione così sensibile, perché interessa anche le libertà di espressione in rete, venga presa da commissari il cui mandato scade proprio fra un paio di mesi? È opportuno che si intervenga in via amministrativa su un tema che negli altri paesi viene regolamentato dalla legge? E visto che la Commissione europea aveva espresso dubbi sulla prima bozza scritta dall'Authority, non è meglio attendere un chiarimento con Bruxelles o ancor più di uniformare la materia del diritto d'autore su internet a livello europeo? E queste sono soltanto alcune delle domande che accendono il dibattito sulla rete. Enrico Pagliarini, Radio 24, Il Sole 24 Ore. In chiusura parliamo di calcio, lo facciamo ancora una volta con Carlo Genta. Buongiorno Carlo. Buongiorno Adriana, buongiorno a tutti di nuovo. Usciamo da una domenica tutt'altro che banale, chiusa da due risultati nei posticipi assolutamente non banali, come il Bologna che ha vinto all'Olimpico con la Lazio 3-1 e il Novara, di nuovo in mano ad Attilio Tesser, che ha battuto 1-0 l'Udinese. Dunque risultati che riguardano anche la testa della classifica, dove Lazio e Udinese si mantengono a distanza dal secondo posto della Juventus, furiosa dopo lo 0-0 con alcuni episodi arbitrali ieri a Genova. Una buona Juventus, un'ottima Juventus anzi, che però fa fatica a trovare la via del gol ed esce dallo stadio arrabbiatissima con gli arbitri in silenzio stampa. Domenica non banale anche perché il Milan, di nuovo brillante nel segno di Ibrahimovic, al solito piuttosto maleducato, come sapete, con le battutacce nei confronti di una collega di Mediaset, però nel segno di Ibra il Milan vince e va a più 4 sui bianconeri. Una domenica segnata anche da un esonero, l'ennesimo, il 15esimo mi pare in questa stagione, e vado a memoria. Di nuovo a Cagliari, Ballardini, che era subentrato a Ficcadenti, è stato esonerato ed è stato richiamato. Allenatori con l'elastico si chiamano questi, lo stesso Ficcadenti che è di nuovo allenatore dei Sardi. Adesso ci prepariamo a tuffarci nella settimana della Champions League. Domani gioca l'Inter con il Marsiglia, è una partita da dentro fuori. I nerazzurri che hanno perso 1-0 la gara di andata. E a proposito di Inter e di futuro allenatore dell'Inter, oggi c'era a Milano Fabio Capello per una cerimonia e ha definito bufale le voci intorno alle le voci su una sua possibile arrivo sulla panca dell'Inter. È improponibile, ha detto Capello, improponibile il suo nome accostato a quello dell'Inter. Ci fermiamo qui, Adriana. Grazie a Carlo Gente ed è tutto per questo notiziario curato da Daniele Biacchessi. Un ringraziamento in regia Filippo Oreggi, un saluto e un augurio di buon pomeriggio da Adriana Fracchia. GR24 torna alle 14. GR24, Il Sole 24 Ore. Direttore Fabio Tamburini.